2024 2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini e questa settimana sono stato e sono ancora a Las Vegas, dove si è svolto e ancora in corso il Consumer Electronic Show, il CES di Las Vegas, la più grande fiera di tecnologia per il mondo consumer del mondo, e questa è la nostra puntata speciale dedicata al CES. Vi do alcune coordinate per raggiungerci: 2024@radio24.it, anche Facebook e anche Twitter. Sono tantissimi i temi, probabilmente alcune delle cose che ho visto, che abbiamo visto in questi giorni di fiera, una fiera che ho definito non-human event, è talmente grande che è impossibile per una persona visitarla tutta. Vi faccio un esempio di un padiglione molto interessante che si chiama Eureka Park, dove ci sono molte startup, sono 500 startup, ma questa è solo una piccola parte di questa fiera, ma ci siamo fatti aiutare anche da alcuni colleghi. Iniziamo da forse il tema principale di questa edizione del CES, la realtà virtuale. Secondo la CTA, la CTA, che è la Consumer Technology Association, che organizza il CES, almeno un centinaio di aziende hanno soluzioni collegate alla realtà virtuale, almeno un centinaio di aziende che espongono qui al CES. Stiamo parlando di visori, c'è chi li chiama anche caschetti, che si indossano in testa. Davanti agli occhi c'è un sistema di lenti e un display che in combinazione creano l'effetto immersivo che fa credere ai nostri occhi e al nostro cervello di essere avvolti da una realtà appunto virtuale. Sul mercato ci sono due soluzioni: visori che hanno solo le lenti, come il Gear VR di Samsung. In questi visori va inserito il display, che tipicamente è uno smartphone, che fornisce anche la capacità di calcolo, e queste soluzioni, non c'è solo quella di Samsung, ce ne sono altre, sono già sul mercato, abbastanza economiche ma non sofisticate come quelle che arriveranno sul mercato, perché la vera novità sono i visori completi di display e lenti. In questo caso la potenza di calcolo è data da un computer a cui questi prodotti vanno collegati, e attenzione, non tutti i PC sono sufficientemente carburati. Su questo fronte il CES di Las Vegas ha dato il via, potremmo dire, alla battaglia della realtà virtuale, e la prima notizia è arrivata da Oculus VR. Oculus Virtual Reality è una startup californiana nata nel 2012 e acquistata nel marzo 2014 da Facebook per 2 miliardi di dollari. Allora, questo visore era atteso sul mercato da almeno un paio di anni. Ricordo che proprio 2 anni fa al Consumer Electronics Show abbiamo chiesto quando sarebbe arrivato e ci dicevano questione di mesi. Beh, sono passati 2 anni, ma è arrivata la notizia. So we launched pre-orders today for the Oculus Rift headset. It's $599, it's available on oculus.com, and it's a virtual reality system that enables you to experience anything, anywhere. Neil Mitchell allo stand di Oculus qui al CES ci dice che Oculus Rift si può prenotare dal sito Oculus a $599 più le tasse. Sapete che i prezzi americani sono espressi sempre privi di tasse, quindi vanno aggiunte le tasse a seconda dello stato dove si abita. Prezzo che in Italia diventa €699. So you plug it into your PC and you're able to be transported to all sorts of worlds, games, films, entertainment. È un sistema di realtà virtuale, ci dice Mitchell, che permette di immergerti dove vuoi. Lo inserisci nel computer e vieni trasportato in ogni sorta di mondo, film, giochi, tutto tranquillamente in casa. Il prodotto sarà disponibile anche in Europa e in un totale di 20 paesi in tutto il mondo. C'è chi sostiene che il 2016 sarà l'anno della realtà virtuale, perché dopo il Rift arriverà un visore simile di HTC chiamato Vive Pre, che è stato mostrato qui al CES. In questo caso i preordini arriveranno a febbraio, consegne sempre dalla primavera, e poi ci sarà in gara anche Sony con il suo sistema per PlayStation. Ma la cosa interessante è che qui a Las Vegas ci sono altre aziende che mostrano i loro visori, molte soluzioni presentate da varie startup di prodotti con le sole lenti, quindi poi bisogna infilarci lo smartphone. Di realtà virtuale ho parlato con tante persone, è un mercato da creare, è una scommessa per molti versi che ha molte potenzialità, non solo per chi gioca, come ci spiega Carolina Milanesi, responsabile globale qui vicino in California delle ricerche a Kantar World Panel. Io non sono un gamer, quindi devo mettere questa come preambolo, che non è una cosa che mi eccita moltissimo passare la mia giornata con questi occhiali in un mondo diverso, però vedo l'opportunità da un punto di vista di business e di educazione, quindi particolari verticals da customer support all'educazione che possono usare questi occhiali, queste goggles nelle scuole per far vedere delle realtà dei bambini che magari non potrebbero viaggiare o che devono sperimentare determinate cose. Senz'altro non è per tutti, per due motivi. Uno, perché c'è ancora una percentuale della popolazione che soffre di motion sickness. Potremmo dire nausea, semplicemente. Perfetto. E quindi c'è oppure mal di mare se sei in mare con la realtà virtuale, o mal d'aria. Così. Esatto. Quindi c'è questa parte. E poi c'è anche un discorso economico. Queste cose non costano poco. E c'è quindi un investimento che il consumatore deve fare per una cosa che forse non vedono così indispensabile nella loro vita, ma dal punto di vista di business senz'altro una grossa opportunità. Ci vuole tempo però. E qui a Las Vegas al CES a provare questi visori c'è anche Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale del sito internet dday.it. Quando ci si mette questo caschetto e si incomincia a fare qualche esperimento, non solo videogiocare, ma magari provare a costruire un qualche cosa di tridimensionale, una scultura tridimensionale con degli oggetti, con dei tool, ecco, quando si incomincia, si entra dentro, si tende a non voler smettere più. Ecco, questo è sicuramente molto coinvolgente, è la nuova frontiera vera del coinvolgimento. È un coinvolgimento che un po', visto da fuori, spaventa, per due motivi. Innanzitutto, quando vedi quelli con il caschetto di realtà virtuale che si muovono nel niente, nello spazio, e fanno dei gesti nell'aria, un po' spaventati sul futuro dell'umanità si rischia di essere, e con qualche ragione. E il secondo motivo è che anche mettendosi nei panni di chi invece sta giocando, sta vedendo una scena o sta seguendo una scena, diciamo, tridimensionale, perché ricordiamoci, il visore è tridimensionale ma anche responsivo, cioè risponde ai movimenti che facciamo, e quindi voltandomi a destra vedo la scena a destra, voltandomi a sinistra vedo la scena a sinistra, quindi è terribilmente immersivo. Ecco, questo possa creare un pochino di, come dire, condizionamento anche, non so, come starà uno che sta per 8 ore dentro il caschetto di realtà virtuale e magari sta soltanto 2 ore sveglio nel mondo reale. Poi, come sempre, gli strumenti tecnologici non hanno colpa, è il buon senso e l'utilizzo delle persone, se no ovviamente tutte le innovazioni possono essere usate anche contro l'umanità. Questa è un'innovazione molto molto pervasiva e che arriva direttamente anche al cuore della gente, perché veramente la faccia di chi ha provato, anche la nostra faccia dopo che abbiamo provato, è sempre una faccia stupita, quantomeno stupita di quello che abbiamo trovato in quel visore. E quindi bisognerà ragionarci, no, per capire quali saranno gli usi corretti e quali saranno gli abusi da evitare. Beh, in effetti sono molto coinvolgenti. Oltre agli usi e agli abusi, andrà creato anche un mercato di contenuti. Questo è molto importante. Se ci saranno videogiochi, video o film, esperienze interattive, educative, soluzioni business interessanti, questo è un mercato che ha un potenziale da spendere molto molto elevato. Quindi ci possono anche essere opportunità di lavoro per tanti. Vedremo. La creazione di contenuti passa sicuramente attraverso la computer graphic, ma anche attraverso nuove videocamere in grado di riprendere scene panoramiche a 360 gradi. Ne ha presentata una Samsung, ma anche Human Eyes, che è una interessante azienda israeliana, ha lanciato il proprio prodotto che sarà disponibile da questa estate. Molti di questi prodotti arriveranno nei prossimi mesi. Ne ho parlato con Shahar Binun di Human Eyes. We have 8 cameras inside our camera, 8 camera modules. Each one of them in full HD. Abbiamo 8 videocamere, ci spiega, tutte HD, e il nostro software è in grado di mettere insieme in un click gli 8 file video generati in un'unica immagine sferica in 3D a 360 gradi. Spherical 3D 360 content. So the user, with a one click of a button, can generate a very nice VR movie. Quindi è possibile generare un bellissimo video, metterlo sullo smartphone e goderselo con un visore per realtà virtuale. Or he can share it on YouTube or on Facebook that now they support 360 movies. Oppure condividerlo su YouTube o Facebook che ora supportano i video a 360 gradi. Adesso parliamo di sensori. La tendenza è sempre quella che abbiamo commentato in altre occasioni. Sensori da un millimetro che diventano sempre più potenti, più piccoli, più economici, fanno un sacco di cose e possono essere infilati veramente ovunque, fino ai vestiti. Allora, ho fatto una chiacchierata molto interessante, molto divertente con Robin Ruskin, che è una gentile signora che ha organizzato qui al Consumer Electronics Show un evento che si chiama Fashion Wear, per parlare di moda, di tecnologia e anche di sensori. So the idea is the fashion industry paid a lot of attention to this, and all the designers are all paying very close attention to wearable and jewelry and fashion and what technology can bring. L'industria della moda è molto attenta e tutti gli stilisti stanno ponendo molta attenzione agli oggetti indossabili, alla gioielleria, alla moda in generale e a che cosa la tecnologia può portare. The Fitbits were ugly, and now here at the show, Fitbit Blaze, more beautiful, more powerful, but you're seeing companies like Mira and companies like Wisewear. Per esempio, i Fitbit erano molto brutti, ma qui allo show abbiamo visto il nuovo Fitbit Blaze, più bello e potente, ma abbiamo visto anche società come Mira o Wisewear, gioielleria d'oro con un modulo integrato che puoi indossare anche ad un matrimonio, ad esempio. Wisewear poi ha anche una cintura che ti controlla e ti manda messaggi. Abbiamo visto vestiti che lampeggiano e mandano messaggi che puoi controllare col tuo smartphone. You're seeing clothing that blings, where it makes a message, you know, that it's controlled by your smartphone. So you're seeing new fabrics also, nanotechnology. Vediamo anche nuovi tessuti, nanotecnologie che non si sporcano e non devi portare in lavanderia, che controllano la temperatura, che possono cambiare colore in base al tenore di una stanza o della musica. Because when you take sensors and you put them and weave them into clothing. Quando inserisci sensori e LED all'interno dei vestiti, ottieni abiti magnifici, molto personali. It's really personalized for you. Ho chiesto a Robin Ruskin se già sul mercato ci sono vestiti di questo genere e mi ha risposto che molte di queste cose sono fatte su misura. Most of these are custom, but you do see if you go to thinkgeek.com, you can buy t-shirts that play guitar, you can buy t-shirts that have signs that flash on them. There are pants on the market that turn into a drum, so you bang your pants and those are for sale. Ma andando ad esempio su thinkgeek.com, si possono comprare magliette dove si suona la chitarra, magliette che hanno dei disegni che si illuminano. Ci sono dei pantaloni, ci ha detto, che si trasformano in una batteria colpendo con le mani il pantalone, magari mentre si è seduti. A proposito di sensori, ho incontrato Marcellino Gemelli, che lavora in California ai laboratori di Bosch SensorTech. Finora si trattava di sensori principalmente per il moto. Gran parte dei telefoni cellulari sono sensibili al movimento, quindi la rotazione dello schermo piuttosto che la navigazione. Quest'anno, come negli ultimi anni, i giocattoli più venduti sono anche pieni di questi sensori. Pensiamo ai piccoli robot, come l'ultimo robot di Guerre Stellari, il BB-8 della Sphero, oppure altri droni che usano questi sensori per volare. Ecco, andando avanti vediamo che la nuova barriera, la nuova opportunità di sviluppo per questi sensori sono i sensori ambientali. Stiamo infatti sviluppando, abbiamo annunciato quest'anno a questo CES, questi sensori che determinano, oltre alla pressione, l'umidità e la temperatura, anche la qualità dell'aria. Dove vanno inseriti nello smartphone anche questi? Quindi sicuramente hanno una dimensione che è compatibile allo smartphone. Però i primi prodotti che stiamo vedendo sono dei prodotti che si collegano alla domotica, quindi a controllo per esempio della ventilazione dell'aria, però abbiamo già visto un esempio di cosa c'è una smartphone cover, questi gusci che vengono messi intorno allo smartphone, che già contengono questi sensori ambientali e che di fatto estendono la capacità sensoriale dello smartphone stesso anche alla qualità dell'aria attorno a noi. Quando parliamo di qualità dell'aria, parliamo di che tipo di parametri? Sono parametri di elementi chimici che vengono rilasciati per esempio dai tappeti oppure dai liquidi che si usano per le pulizie o anche dalle stesse persone. In altre parole, questi sensori riescono a misurare quello che noi siamo in grado di misurare soggettivamente. Per esempio, se noi entriamo in una sala riunioni dove c'è stata una riunione con le porte chiuse, sentiamo che l'aria è pesante. Ecco, questo sensore è in grado di determinare se l'aria è pesante. Al di là dell'informazione e della curiosità di sapere qual è lo stato dell'aria, poi ci saranno immagino tanti servizi, cioè bisognerà usare la fantasia per scatenare delle applicazioni, delle attuazioni all'interno di una casa. Certo, come in altri ambiti della Internet of Things, non è tanto la raccolta dei dati, ma che cosa io faccio con questi dati. Se io riesco a prendere delle azioni volte a migliorare la mia qualità della vita oppure ridurre il tempo che io spendo per fare le cose, ecco, queste sono tutte delle cose che mi danno valore. E con questi sensori sempre più piccoli ed economici si può fare, come dicevo, veramente di tutto. Wearable devices, cose che si indossano di ogni tipo per misurare quanto corriamo, quanto e come dormiamo, la massa muscolare, oggetti per lo sport. Devo dire, tantissimi sensori per tracciare la nostra attività sportiva, come quello presentato da Intel e Luxottica, come ci spiega Luca Salvioli, che è uno dei miei colleghi del Sole 24 Ore, che qui a Las Vegas ha lavorato a questo evento assieme a Luca Tremolada. È una partnership di un anno fa per portare la tecnologia di Intel sugli occhiali, quindi sui prodotti di Luxottica. Per la prima volta si è visto il risultato dopo un anno, ovvero uno degli occhiali Oakley, che è il brand sportivo americano, però di proprietà di Luxottica, occhiali che montano il processore Intel Curie, che è un microcomputer di Intel, e quindi sono in grado di monitorare l'attività fisica. Servono agli sportivi, agli atleti che corrono, vanno in bicicletta. Dall'occhiale riescono ad avere, tramite una cuffia che scende, dall'occhiale va nell'orecchio, le informazioni su passo medio, velocità, eccetera, eccetera. Non solo ti danno le informazioni, ma ti fanno da coach, perché il sistema è in grado di imparare la tua attività sportiva, di dirti se rispetto al programma avresti dovuto fare di più, di meno, ti può incitare, cose di questo tipo. E tu atleta, tu persona, puoi dialogare con l'occhiale a voce, quindi come i comandi vocali dello smartphone, così fanno gli occhiali. Non stiamo parlando solo di un sensore, un vero computer così piccolo che sta in un occhiale. Questo è una grande rivoluzione. In effetti Intel aveva presentato l'anno scorso Intel Curie e i processori stanno arrivando su una miriade di oggetti. Peraltro è un'opportunità per il Made in Italy, perché loro, le aziende tecnologiche della Silicon Valley, stanno cercando chi sa produrre i vecchi, tra anche oggetti più tradizionali come l'occhiale, per renderlo digitale. Luxottica l'ha colta, anche con Google sta collaborando da tempo, ma ancora non si è visto il risultato, c'è un po' di rallentamento. Qualsiasi, abbiamo visto in effetti i sensori stanno arrivando dappertutto, e specie con applicazioni sportive. Abbiamo visto magliette, calze intelligenti che tramite i sensori ti danno informazioni su battito cardiaco, pressione per dire del piede nella scarpa e così via, e poi viene rielaborato dal software. Abbiamo visto delle biciclette tipo BMX che ti danno la velocità, la rotazione, tutte queste informazioni per sport anche estremi. E lo abbiamo visto su sport di vario tipo. Un'altra applicazione interessante è nei tessuti, e non riguarda solo lo sport ma anche la moda. Ancora sui sensori e lo sport, sentiamo l'esempio di PIC, ma è proprio un esempio per capire che quello che si può fare, è descritto da Vincent Moss. È un sensore molto piccolo, 10 grammi, però in quali abbiamo messo parecchi accelerometri, due accelerometri, uno molto preciso, uno molto più forte per gli impatti. Poi abbiamo messo un giroscopio, c'è anche un barometro, altimetro, e anche uno che, come dire, una bussola, come si dice? La bussola. E poi c'è anche il NFC, cioè il senza contatto, cioè un po' lire i pin NFC, e c'è il Bluetooth, BLE, quella nuova norma che consuma poco. Quindi in realtà è una somma di sensori. A che cosa serve? Questo sensor, come diciamo, è multisport, cioè è così compatto, è così potente, c'è un M4 processore che è molto potente, è così potente che possiamo analizzare molto sport. Oggi, in 2016, abbiamo già fatto il golf, che è pronto per vendita, cioè analizziamo totalmente il movimento del golf, del swing. Possiamo analizzare la velocità del club, se è inside, outside, e qual è poi il tempo, cioè il tempo di backswing comparato con il tempo di downswing. Questa è la parte analisi del swing. Quindi questo poi, sensore lo devo mettere sulla mazza da golf? No, il sensore lo metti sul guanto. Ah, sul guanto, sul ok. Guanto, ah, misura quello che faccio io. Assolutamente. Siccome ogni volta che prendo il new club, puoi toccare il sensor con il club, c'è un NFC pin nel club, il sensore sa che club stai usando. Cioè, alla fine della partita, ti può dire che club hai usato, che sono state le velocità, che quali sono le lunghezze anche sulla partita. E ti fa alla fine sul telefonino la vista completa, la helicopter view di tutti i tuoi shot sulla partita. E poi avete anche un... Ma questa è la prima parte, scusami. Questo, il golf, ma facciamo anche il tennis con Babolat e analizziamo completamente anche come si fa, come è fatto, cioè qual è la potenza, qual è la qualità del movimento. E nello stesso modo analizziamo la partita, cioè la persona può andare la mattina, andare a giocare, non prende neanche il telefonino, mette il sensor sulla mano, va a giocare al tennis e quando torna recupera tutta la partita e conosce la ripartizione dai colpo dritti, del river, quanto smash. Il sensore potrebbe tracciare qualsiasi sport, il problema è il software che va costruito in base alle tipicità di quello sport. Assolutamente, oggi la PIC abbiamo tre sport pronti, due sono già in vendita, che dunque, come l'ho detto, il golf e il tennis, ma abbiamo appena finito adesso lo ski che facciamo con Rossignol, che sarà pronto fine febbraio, e abbiamo nella roadmap più di 24 sport e siamo su un ritmo dove stiamo per fare 4 sport, nuovi sport per anno. Allora, poi parlando sempre di sensori, c'è tutto il grande tema della smart home, della casa intelligente, dove però il problema è quello che abbiamo descritto nei mesi scorsi, ciò che stiamo descrivendo da un po' di tempo. Non c'è ancora uno standard condiviso per fare comunicare, dialogare gli strumenti che abbiamo in casa. Allarmi, videocamere, termostati, elettrodomestici. Il rischio vero è che se si compra un oggetto o un sistema di una determinata marca, si rischia poi di dover continuare con quel brand. Più che un rischio è una certezza. Oppure un altro dei problemi è che bisogna usare un'app per ogni dispositivo, per ogni sistema, un'app per le luci, un'app per gli elettrodomestici, eccetera, eccetera. Insomma, Apple, Google, Amazon, Samsung stanno tentando di creare linguaggi condivisi, ma già il fatto che ci stiano provando in tanti, beh, questo crea ancora un po' di confusione. Ma siamo all'inizio di un grande trend. A proposito di casa intelligente, è sicuramente interessante, anche curioso, il trend degli elettrodomestici. Sentiamo l'esempio dei frigoriferi di LG e Samsung. Nicola Micali di LG. Ha un vetro magico in una delle due porte, in cui è possibile guardarci attraverso e quindi vedere qual è il contenuto del frigorifero, come in maniera molto semplice toccando proprio questa superficie in vetro con cui è realizzata la porta. Quindi bussando, toc toc. Basta sì, bussare al frigo e ci guardo all'interno e posso guardare cosa c'è proprio, qual è il contenuto. Certo, è il vantaggio che non apro la porta e così non faccio uscire il freddo. Esatto, esatto. Poi è più comodo. E l'altra particolarità? Basta avvicinarsi per far aprire automaticamente la porta. Come tecnicamente è molto semplice, c'è un sensore che rileva la presenza dell'utente finale e automaticamente la porta si apre. E se passa, mi dicono, un animale, lui capisce che non deve aprirsi. Esatto, esatto. È già programmato per evitare questo tipo di inconveniente. Samsung invece del vetro ha messo uno schermo sul quale condividere il calendario o connettersi ad internet, come ci ha spiegato Marco Annapel di Samsung. È un televisore di 21 pollici e mezzo inserito all'interno dello sportello, diciamo del frigo doppia porta, frigo bellissimo. Sì, molto grande, si chiama Family Hub. Sì, sì, è un Family Hub perché anche la cucina è un secondo hub dopo il salotto dove c'è il TV. possono annotare le proprie note, acquistare online prodotti che mancano. C'è una specie di tablet integrato nello sportello del frigorifero. Sì, sì, è un prodotto touch che consente tantissime applicazioni comunque. Quindi arriverà sul mercato anche in Italia? Sì, certamente, è uno dei nostri lanci del 2016. Uscendo di casa e andando in ufficio, ma continuando a parlare di sensoristica, ci sono cose molto interessanti come quella creata da Massimo Baldini, che lavora negli Stati Uniti da tantissimi anni, che ha fondato da poco TOM, che cerca di introdurre i sensori nell'ufficio per fare tante cose. Abbiamo visto che l'ufficio è uno spazio chiaramente che viene utilizzato da molti di noi per 8 ore al giorno o più, e non c'è molta connessione, quindi con Internet of Things che diventa più papabile, abbiamo deciso di occuparci di quello spazio, e in particolare ci siamo decisi di metterci in partnership, di lavorare con un'azienda che è leader nei mobili d'ufficio in ergonomica, e dal nostro punto di vista, con i nostri ingegneri software, abbiamo creato un prodotto che si chiama Office IQ, come intelligenza, quoziente di intelligenza dell'ufficio in italiano, e in pratica sono sensori e software che monitorano la presenza dell'impiegato nell'ufficio e la posizione dell'impiegato, se è seduto o in piedi. Il concetto è di riuscire a far muovere gli impiegati nell'ufficio e renderli attivi. Sì, questo è un problema tipicamente americano, poi probabilmente anche europeo, però qui c'è un'attenzione particolare a questo aspetto. Esattamente, il motivo sono due motivi. Uno, che siamo arrivati al 60%, 6-0, di americani sono sovrappeso, numero uno. E numero due, le aziende in America pagano questo costo. Il costo dell'obesità si traduce in 140 miliardi di dollari all'anno. Perché pagano le assicurazioni sanitarie. Esatto. Quindi riuscire a monitorare gli impiegati in maniera aggregata, quindi non Massimo, te non ti muovi abbastanza, ma tutto il dipartimento, l'informazione viene passata in maniera aggregata e anonima all'azienda, l'azienda la passa alle assicurazioni sanitarie, le quali riescono a risparmiare un po' di soldi, e noi ne prendiamo una piccola porzione. Sì, questo è uno dei problemi. Voi dite stare seduti è come fumare. Esatto, dicono sitting is the new smoking, che come dici tu esattamente, 20 anni fa fumare era considerato quasi accettabile, adesso sappiamo che è un problema enorme ovviamente dal punto di vista salutare. Gli ultimi 7-8 anni dalla Mayo Clinic, aziende, ospedali eccetera, hanno fatto ricerche che dimostrano che star seduti troppo a lungo è veramente un problema. Ecco, oltre a questo dicevi c'è un tema legato alla presenza, quindi al monitoraggio delle presenze, non tanto per sapere se un lavoratore è alla scrivania oppure se è seduto o in piedi, ma proprio per una gestione dei luoghi. Esatto, un altro angolo che il nostro partner HumanScale, come dicevo prima, sono esperti e leader nella fabbricazione di mobili d'ufficio, a loro interessa capire l'utilizzo dei vari prodotti che vendono. Dal punto di vista monitoraggio è interessante per HumanScale avere dati da poter mostrare ai loro clienti in riguardo all'utilizzo dei vari prodotti che vendono. Ecco, ci fai un esempio di che cosa significa monitorare attraverso i sensori che voi attaccate ai mobili, a questi mobili, monitorare le aree dell'azienda, gli uffici sostanzialmente? La seconda area sono le conference room, quindi le sale di riunioni che sono sottoutilizzate o soprautilizzate, nel senso che o ce ne sono troppe e sono mezze vuote, o non ce ne sono abbastanza. Avere dati che dimostrano l'uno o l'altro riesce a creare opportunità per HumanScale di vendere ulteriori prodotti. E questo voi lo fate con che tipo di sensori? È un sensore che è collegato, incluso nella ruotina della sedia, è sempre un sensore di pressione e si collega tramite Bluetooth alla rete. Senti, questi sensori, quando non sono connessi via cavo, hanno delle batterie, ad un certo punto bisognerà cambiare le batterie. Dunque, il sensore per sit-stand, per il prodotto Office IQ che si collega al tavolo, è collegato tramite USB, quindi non ha bisogno di batterie, quindi quello funziona per sempre. Il sensore è collegato alla sedia, nella ruotina della sedia, la batteria dura 10 anni. In genere le sedie durano 10 anni pure, quindi si può cambiare la batteria volendo, ma magari si cambia la sedia. Continuo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, siete all'ascolto di Radio 24 e questa è la puntata speciale di 2024 realizzata dal Consumer Electronic Show di Las Vegas. Oh, naturalmente, come dicevo all'inizio, i temi sono tantissimi e quindi molto probabilmente anche la prossima settimana o nelle settimane successive continueremo a parlare e magari farvi ascoltare anche alcune delle interviste che abbiamo realizzato qui a Las Vegas per approfondire altri temi. A proposito di temi, trend, prodotti che abbiamo visto, molte cose su stampa 3D e droni, ma nulla di particolarmente nuovo, sempre molto interessante perché tutte queste tecnologie, così come le altre di cui abbiamo parlato poco fa, sono in continua evoluzione, quindi c'è sempre qualcosa di interessante. Sui droni potrei dire che ho visto una esplosione di videocamere 4K, e fra poco parleremo anche di 4K. Adesso invece ci occupiamo di automobili. Da circa 4 anni al CES ci sono quasi tutti i produttori di auto per dimostrare come l'elettronica sia diventata oramai il grande trend di sviluppo delle auto. Il primo obiettivo, e direi che già ci siamo immersi, è quello di produrre veicoli connessi a internet, connessi alla rete, e connessi al nostro smartphone, e rendere la connessione ad internet con tutti i servizi a bordo che già sono nati ma che nasceranno nei prossimi anni una cosa normale. Oggi non è ancora normale avere l'auto connessa ad internet, è una opzione, un optional per alcuni modelli di punta, però è un trend molto molto vicino su cui ci sono investimenti estremamente importanti, come per esempio due annunci che sono stati fatti a Las Vegas al CES. Fiat Chrysler e Ford, a distanza di poche ore, hanno lanciato novità che riguardano i sistemi di infotainment, cioè di informazione e intrattenimento a bordo. Ad esempio, la quarta generazione del sistema Uconnect di Fiat sarà compatibile con Apple CarPlay e Android Auto su alcuni veicoli del gruppo già a partire dal 2016, mentre Ford punta ad inserire su tutti i modelli entro il 2017 questi due sistemi operativi per automobili che, forse molti di voi sapranno, permettono di interagire in modo sicuro, di connettere gli smartphone sia iOS che Android. Va detto che altri produttori hanno già sul mercato veicoli con queste caratteristiche, quindi non sono i primi ad arrivare, però è una dimostra quanti investimenti ci sono e quanto è importante questa evoluzione. Poi c'è il trend dell'auto elettrica, ne ha fatto molta notizia il lancio di una concept car, un minivan di Volkswagen completamente elettrico. Ovviamente nel medio periodo, non più lungo periodo ma medio periodo, c'è il trend dell'auto a guida autonoma, ma per ricapitolare quello che sta accadendo sul mercato, ho fatto una chiacchierata molto interessante con Ricky Udi, che è il responsabile dello sviluppo dell'elettronica di Audi. If you summarize the future megatrends in the automotive industry, it is electrification, electric driving, it is digitalization, and it is autonomous driving. These three mega trends, additional to the fascinating core product with good styling and so on. I tre filoni di sviluppo, ci dice Udi, sono propulsione elettrica, digitalizzazione e guida autonoma. Queste sono le tendenze unite ovviamente al design delle automobili, che rimane, deve essere sempre all'avanguardia. Se guardiamo ad oggi, ci dice ancora Ricky Udi, our virtual cockpit is outstanding. Ci sono già molte di queste tecnologie, come ad esempio il nostro cruscotto virtuale, ma stiamo guidando velocemente verso la guida autonoma e il prossimo anno sarà sul mercato la nuova Audi A8, la prima delle nostre auto in grado di guidare da sola. Adesso cambiamo padiglione della fiera e parliamo di uno dei prodotti più commentati, più visti, per certi versi anche più desiderati, i televisori. Tra poco ne parleremo con Gianfranco Giardina del sito dday.it. Prima facciamo un salto nello stand di Samsung, dove abbiamo incontrato Marco Annapel, direttore della divisione audio video. Partiamo dalla qualità dell'immagine, che è sicuramente per noi il cavallo di battaglia, quindi SUHD con Quantum Dot Display, quindi 64 volte gamma colore, luminosità 10.000 NIT, con un veramente visibile differenza rispetto a prodotti di qualità inferiore. Dopo la qualità dell'immagine passiamo al design. Si curvo, ma con un design sottilissimo, i televisori più sottili al mondo, con una tecnica di costruzione nuova, senza alcun tipo di viti, e quindi sul retro anche il televisore è bellissimo, un pezzo unico, veramente fantastico. Bisognerebbe metterlo in mezzo alla casa, non attaccato a un muro. Sì, sì, in ogni caso tanti italiani, 3 italiani su 4 ancora il televisore non lo appendono, quindi per questi consumatori è importante avere un televisore anche che sul retro si veda bellissimo e molto innovativo. Anche voi confermate la crescita non solo da parte del produttore che offre TV sempre più grandi, ma i consumatori effettivamente comprano TV sempre più grandi? Sì, la crescita del prodotto dal 55 pollici in su è evidente. Il 55 pollici quest'anno è stato il segmento a valore più importante che ci sia. Per darti un'idea, negli altri anni era il 32, quindi c'è un grande salto di qualità. È dovuto al fatto, io la chiamo generazione switch off, quindi gli italiani che negli anni dal 2009 al 2012 hanno comprato un televisore e lo hanno comprato piccolo, oggi tornano sul mercato per sostituirlo con uno più grande, che oggi ha anche dei prezzi accessibili a quasi tutti. Voi puntate ancora sul curvo? Sì, puntiamo sul curvo, anche sul piatto, perché è una polarizzazione non solo degli italiani ma anche proprio del mercato europeo. Piacciono i curvi, piacciono i piatti. Curvo è sicuramente un prodotto più nuovo, più diverso rispetto a quello che si vedono dentro le case degli italiani, però ci sono prodotti per entrambi i gusti. Da quest'anno abbiamo visto una, non so se chiamarla evoluzione, novità, proposta, che parte dal televisore e si comincia a connettere al concetto di smart home. Allora, spieghiamo innanzitutto cosa c'entra il televisore con la smart home. E che cosa fa questo televisore? Che cosa può fare? Il televisore innanzitutto ritorna ad essere un po' il centro della casa. Lo è già perché geograficamente viene inserito nel salotto, che è dove la famiglia si riunisce, eccetera. Diventerà un hub per poter dal televisore comandare tutte le funzioni della casa, della smart home, attraverso per esempio la nostra funzione Smart Things, che è inserita all'interno del televisore con 220 applicazioni gestibili per gestire la temperatura della casa, piuttosto che controllare la sicurezza, far partire le luci. Insomma, ci sono tante cose che da qui al breve futuro potranno essere connesse al televisore, che ripeto torna ad essere l'hub della casa. Da Samsung ci siamo spostati ad LG, che per ora rimane l'unico grande brand ad avere TV OLED. Nicola Micali è il responsabile della divisione Home Entertainment di LG. Presentiamo, ed rappresenta sicuramente un nuovo trend tecnologico, quattro nuove serie OLED che verranno introdotte da metà a fine 2016. Cosa è OLED? È un TV senza alcuna retroilluminazione, estremamente sottile. Oggi al CES è possibile ammirare uno schermo il cui spessore è di soli 2,57 mm. Oltre al discorso puramente estetico, però, qual è il vantaggio di non avere la retroilluminazione e di controllare ogni singolo pixel dell'immagine che viene riprodotta sullo schermo? Nero perfetto, colore perfetto e soprattutto il contrasto infinito, vale a dire solo con uno schermo OLED oggi è possibile ottenere qualità di questo tipo. Naturalmente voi puntate però anche su i classici LED. Esatto, LED, Ultra HD, sia con 3D e smart o soltanto smart, con dimensioni che vanno, nel caso specifico dell'Ultra HD, dai 40 fino agli 86 pollici. Questa è una tendenza, cioè gli schermi stanno diventando sempre più grandi. Esatto, e ci aspettiamo come crescita una grossa porzione sia dal 55 in su, quindi sia nel segmento 55 pollici ma anche sopra i 65, con dimensioni 70, 75 e 86 pollici. Oggi la dimensione media qual è? 40-43 pollici e 48-50 pollici rappresentano una porzione importante del mercato, ma il segmento che sta crescendo più rapidamente negli ultimi 3 anni è sicuramente il 55 pollici. Certo, comunque è indicativo che anche i consumatori, anche in Italia, stanno comprando prodotti sempre più grandi. Naturalmente la definizione di questi schermi aumenta e questo è uno dei motivi per cui è necessario uno schermo grande. Senti, tornando agli OLED, ho notato che i nuovi prodotti che arriveranno, beh, questo l'hanno notato in molti, direi un po' tutti, pochissimi sono curvi e sono molti TV sono piatti. Avete capito che forse il curvo non era il massimo? Beh, diciamo che noi anche durante il periodo in cui c'erano più presenti sicuramente più televisori curvi, abbiamo fatto la scelta ben precisa di non curvarli troppo per evitare di togliere lo spazio alle immagini, perché comunque parliamo di prodotti da 55, 60, 65 pollici, che sono delle dimensioni poi relativamente medio-grandi, in cui se vado a stringere troppo il raggio di curvatura vado proprio a togliere lo spazio alle immagini. E questo, vabbè, è il primo aspetto su come noi abbiamo affrontato il trend curvo. Per rispondere alla domanda, diciamo che più soprattutto su OLED è il consumatore finale che richiede l'erede del plasma, quindi del top delle qualità delle immagini, e ci richiede un design flat, quindi un design piatto. Vi state un po' godendo questo periodo in cui non ci sono concorrenti sull'OLED? Sì, LG ha introdotto l'OLED comunque da fine 2013, è vero, lo ha introdotto inizialmente con un solo modello da 55 pollici. Nell'ultimo anno e mezzo la line-up è cresciuta parecchio, adesso abbiamo ben 4 serie con 5 modelli. Non ci dimentichiamo, il prossimo mese, quindi questa è una novità, on top al CS, introdurremo nel mercato italiano il primo 55 pollici flat, piatto e 4K, che è attesissimo dal mercato. Però è anche vero che LG Display, che è un ramo di LG Electronics, ha iniziato anche a vendere il pannello a terzi brand. Ma a proposito di televisori, dal punto di vista tecnologico, quali sono le novità? Ne abbiamo parlato con Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale D-Day.it, che è sempre uno dei punti di riferimento quando durante tutto l'anno, ma in particolare quando veniamo al CES di Las Vegas. La novità di quest'anno è che il 4K, cioè l'Ultra HD, è diventato ormai mainstream, cioè praticamente su tutti i televisori di una certa dimensione in su, e quindi l'industria deve andare avanti, deve offrire qualcosa di più sulle linee premium, e questo di più è stato identificato fondamentalmente nell'estensione dello standard 4K chiamato HDR. Ai, dobbiamo imparare un nuovo termine. Sì, vuol dire praticamente una gamma dinamica più estesa, più ampia. Che cosa significa? Significa che è qualcosa di molto simile, se vogliamo, al rapporto di contrasto di una volta, di cui si parlava tempo fa, ma avere una nuova codifica di segnale video, quindi ci vuole un segnale video codificato in maniera differente, che non si limiti a darmi un segnale tra il nero più scuro e la luce più chiara che ha quella distanza, ma più ampia, quindi una gamma dinamica più ampia, quindi vuol dire neri più profondi per quanto il TV possa farli neri, ma soprattutto luci, picchi di luce molto più alte. Faccio l'esempio classico, i fuochi d'artificio, cioè luci intensissime che si stagliano su un cielo nero. Ecco, su un fuoco d'artificio un'alta gamma dinamica è quello che fa la differenza, cioè fa vedere molto meglio. Potremmo dire, tanto per farla capire un po' di più, che il mondo che abbiamo attorno e i nostri occhi sono già HDR, cioè hanno già un'alta dinamica. Il TV, il video, dalla notte dei tempi a oggi, ha avuto una gamma dinamica più ristretta per limiti proprio costruttivi dei pannelli di risposta dei TV, e quindi il segnale è stato codificato in maniera adeguata per funzionare bene sui TV di 10 anni fa, di 20 anni fa, di 30 anni fa e anche quelli di oggi. Adesso cosa facciamo? Cambia un po' tutto, cioè diciamo bisogna avere una gamma dinamica che assomigli di più alla realtà. I TV adesso possono farlo, quindi possono avere queste luci molto intense, questi neri molto profondi. Benissimo, ci vuole un segnale nuovo però. Quindi TV da un lato che hanno queste funzionalità HDR, TV che avranno una certificazione, quindi un ulteriore bollino, ahimè, sui TV che certifica che quel TV è compatibile con, diciamo, con un segnale HDR, quindi è in grado di riprodurre queste altissime luci, e però servono poi i contenuti, e quindi è un'ennesima innovazione come tutte quelle che abbiamo visto negli ultimi anni. Le cito per esempio il passaggio all'alta definizione, bellissimo, ma servivano i contenuti in alta definizione. Il 3D, bellissimo a chi piace, ma servivano i contenuti in 3D, e così via. Il 4K, ma servono i contenuti in 4K. Adesso che il 4K è commercialmente finito, cioè quando un'innovazione riguarda praticamente tutti i prodotti, non è più commercialmente un'innovazione. In realtà lo è, perché chi ha comprato un TV 10 anni fa comprerà un TV oggi che è molto più bello, e probabilmente lo sceglierà 4K anche se non lo sceglie, nel senso che probabilmente sarà già 4K. Quindi per lui è un'innovazione, ma per il mercato, per il commercio, per il trade, per tutti coloro che trattano professionalmente i TV, l'innovazione non c'è più. L'HDR diventa un'innovazione invece di quest'anno. Servirà? Non servirà? Beh, servono i contenuti. Soprattutto lo capiremo, perché è una complicazione in più. Tra l'altro tu hai citato questo bollino che è Ultra HD Premium, quindi quando andiamo a comprare un televisore nuovo dobbiamo controllare che ci sia, cioè se c'è è meglio. Se c'è è meglio, anche se non sappiamo al momento quante volte lo useremo. Nel senso che, come dicevamo, ci vogliono i contenuti. Io sono sempre più favorevole alle innovazioni che funzionano da sé. Quando abbiamo parlato di OLED per esempio in passato, perché a me piace molto il TV OLED, perché è un passo avanti di sicuro, ed è un passo avanti che funziona sin da subito con qualsiasi contenuto, si porta a casa e va, e questo è un vantaggio non indifferente per il consumatore. Invece oggi prendere un TV HDR significa comprare una promessa, senza garanzie che la promessa poi venga mantenuta o mantenuta in quantità abbondante, insomma. Ecco, a tal proposito, visto che hai citato gli OLED, che cosa c'entra l'uno con l'altro? Cioè, questa novità dell'HDR, questa specifica nuova per vedere queste immagini molto più belle, molto più brillanti, esiste sia per gli OLED che per i LED? Allora, esiste sia per gli OLED che per i LED, ma è stato frutto di una guerra, una vera e propria guerra interna al mercato in questi mesi, proprio prima di Las Vegas, perché l'OLED per sua stessa natura non è in grado di emettere la stessa luminosità di picco dei TV LCD. Però uno ti potrebbe dire, chi se ne frega perché è bellissima l'immagine. Certo, è un po' meno luminoso, ma attenzione, l'occhio umano si abitua molto facilmente agli sbalzi di luminosità, perché come una bella macchina fotografica apre il diaframma e l'occhio vede molto bene anche in condizioni di luce minore. Peraltro invece è vero che un TV che emette un'illuminazione eccessiva in un ambiente oscurato può diventare fastidioso, perché è troppa luce, così tanta che andiamo a saturare che cosa? La gamma dinamica dell'occhio, perché anche quella è comunque più ampia di quella dei TV di ieri, ma è comunque limitata, e allora lì diventiamo fastidiosi. Ma per esempio, che cosa dicono alcuni che spingono sull'LCD, che appunto può essere, siccome è retroilluminato, può avere una luminosità di picco molto alta? Dicono che per esempio, secondo una statistica che è stata fatta, l'82% degli americani, gli americani, perché la statistica è stata fatta sugli americani, non so se gli italiani si comportano uguale, ma guardano il TV fondamentalmente in condizioni di piena o abbondante illuminazione, cioè non oscurano la sala, non guardano in penombra. Allora, per questo 82% degli americani, un TV con una bella luminosità di picco anche molto alta non è fastidiosa, perché comunque è in un ambiente luminoso e quindi l'occhio ha già l'iride già chiuso, quindi la pupilla è già sufficientemente contratta per non ricevere troppa luce. È chiaro che se invece questa condizione viene vista, viene fatta in una stanza eccessivamente scura o comunque in penombra, quella luminosità di picco può dar fastidio. Quindi ci sono scuole di pensiero: meglio l'OLED, meglio l'LCD. Di fatto l'OLED ha un nero che l'LCD non raggiungerà mai, ha il nero completo. L'LCD invece è un nero molto migliorato grazie a tante tecnologie che sono state implementate in questi anni, ma un nero che non è completamente nero, non è neanche un grigiastro, non renderemo giustizia a quel nero, ma comunque è un nero un po' meno profondo. Allora, sono state fatte due set di specifiche che settano il livello massimo di luminosità, ma il livello minimo di nero che deve essere garantito. Uno va bene per gli LCD, che devono raggiungere i 1000 nit, che è l'unità di misura della luminosità. Mentre agli OLED è concesso di arrivare praticamente a un livello di picco della metà, ma perché ha un nero molto più basso. La gamma dinamica resta comunque uguale, perché partendo da un nero più nero può evitare di andare su una luminosità molto più alta. Mi rendo conto che il fatto che 5 minuti che stiamo parlando di questo argomento e non ne siamo ancora venuti a capo significa che è un argomento che è troppo complicato per arrivare sul mercato così com'è. Quindi o verrà semplificato, che probabilmente significherà banalizzarlo, oppure deve essere visto, perché devo dire che l'HDR visto e visto nelle condizioni buone, beh, è bello, si vede molto bene. I fuochi d'artificio di cui dicevo prima, un cavaliere che cammina nella notte con una torcia, delle scene, veramente. Chiaro che su una scena ordinaria dove non ci sono picchi di luminosità particolari, il contributo dell'HDR praticamente non si vede o si vede molto poco, perché siamo ancora in un range di gamma dinamica che è già garantito dagli standard video attuali. Senti, ti faccio una domanda sempre sul 4K, perché una delle novità del CES è l'arrivo sul mercato di lettori Blu-ray 4K. Quindi abbiamo i televisori che possono vedere in 4K, i contenuti che arrivano in alcuni casi, pochissimi ancora, via internet in 4K, o c'è un esperimento di Eutelsat via satellite 4K, e arriveranno presto anche i dischi Blu-ray 4K. Intanto è vero? Sì, è vero. Allora, li ho visti anch'io. È vero, arriveranno anche velocemente, quindi nei primi mesi dell'anno arriveranno i lettori, e più o meno direi nel primo semestre vedremo già alcuni titoli. Si chiama Ultra HD Blu-ray, quindi è un'estensione, diciamo, del Blu-ray, un'estensione nel senso che i lettori sono in grado di leggere anche i Blu-ray, anche i DVD, anche i CD, ovviamente, quindi tutti quei dischetti di quel formato, ma non è vero che un Blu-ray player di oggi sia in grado di leggere questi nuovi dischi. Così questi nuovi titoli saranno distribuiti in una confezione che avrà dentro sia il Blu-ray, l'Ultra HD Blu-ray, quindi quello in 4K, che il Blu-ray convenzionale. Questo per garantire, insomma, il fatto che nessuno sbagli. Si compra un disco e poi uno, secondo il lettore che ha, se è il lettore migliore, potrà vederlo in 4K. Allora, è una benedizione che arrivi questo formato. Una benedizione innanzitutto per la qualità, perché è sempre stato così e sempre sarà. I formati offline, quindi quelli su disco, sono quelli che possono essere codificati a un bitrate più alto. Basti tenere presente che un Ultra HD Blu-ray è codificato con un flusso di dati di 100 megabit al secondo. Allora, 100 megabit che devono essere garantiti per tutta la durata del film. Se noi volessimo sperare di avere un collegamento internet di 100 megabit reali di throughput, dovremmo avere probabilmente un collegamento anche più della migliore fibra che esiste adesso commercialmente nelle case, e quindi sarebbe impensabile avere quel tipo di qualità. Quindi avere quella qualità si può soltanto con i dischi. Evviva, anche perché questi dischi saranno già codificati in HDR, e allora ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima, cioè avranno già le codifiche HDR, perché se no questi benedetti acquirenti, possessori di TV HDR, che cosa ci vedono? Visto che tutto il mondo dei broadcaster, e anche questo va detto, italiano soprattutto, ma anche nel mondo, non ha ancora stabilito con quale standard di HDR trasmetterà, e non ha ancora stabilito in maniera chiara e certa se i TV che verranno venduti anche quest'anno, in tutto il 2016, saranno poi pienamente, completamente compatibili con le trasmissioni eventuali del futuro. Quindi non possiamo contare sui broadcaster, possiamo contare sullo streaming. Per esempio Netflix ha annunciato di aver già codificato in HDR per esempio le sue serie Marco Polo, di aver rifatto il mastering della prima stagione, di aver lavorato già in HDR la seconda stagione. Quindi è una bellissima notizia, però Netflix funzionerà solo sui TV che Netflix certificherà come compatibili funzionanti, che, attenzione, mi dispiace introdurre delle complicazioni, ma è così e non potrei dire il contrario, non sono quelli che hanno il bollino Ultra HD Premium. Quindi il bollino Ultra HD Premium dà delle specifiche e quelli rispondono a quelle specifiche, ma Netflix dice io i miei film in HDR li do ai TV che certifico io. E stiamo aspettando che vengano certificati, perché al momento Netflix ha detto che i contenuti sono già pronti, ma i TV certificati non ce n'è. Sì, c'è molta confusione. A proposito di confusione, ad esempio Sony ha scelto di non andare, di non seguire gli altri produttori che sono, correggimi se sbaglio, Panasonic, Samsung ed LG sul Ultra HD Blu-ray e di fare una cosa per i fatti propri sul 4K, giusto? Ma in realtà questo è stato molto equivocato. Ho visto un po' di errori sulla stampa internazionale e italiana. Sony ha lanciato un lettore che in realtà di 4K non c'ha quasi niente, anche se c'è il logo davanti 4K, perché fa soltanto l'upscaling in 4K, ma non è in grado di leggere gli Ultra HD Blu-ray. Quindi Sony non è per il momento di questa partita, non è dell'avviso, e la cosa fa pensare, perché Sony è l'unico produttore che integra al proprio interno, all'interno del proprio gruppo, una major cinematografica. E allora, se una major cinematografica, o meglio una società hardware di una major cinematografica, decide di non fare questo tipo di disco e questo tipo di lettore, ma fa qualche disco, perché Sony Pictures uscirà con dei dischi, mi fa credere che lo faccia, come dire, ci sono anch'io, ma non è che ci creda più di tanto. Però questo lo vedremo. Di fatto negli Stati Uniti oramai il tema è quello di far partire i servizi in streaming in 4K. In Europa potrebbe essere diverso, perché un po' per la distribuzione della banda larga, un po' perché alcuni player non ci sono. Chiaramente adesso abbiamo Netflix da qualche mese, ma Hulu piuttosto che altri gestori americani da noi ancora non ci sono, e quindi le due cose sommate potrebbero creare un mercato per l'Ultra HD Blu-ray dalle nostre parti. Però mi chiedo, ti chiedo e chiedo a tutti gli ascoltatori, negli ultimi 10 anni abbiamo mai visto uno standard che si è affermato solo in una parte del mondo, oppure gli standard oramai devono essere globali, perché sennò non vengono raggiunte le economie di scala e le strategie oramai non sono più locali, parliamoci chiaro. Mi sembrerebbe strano. Quindi stiamo alla finestra, guardiamo, godiamoci l'HDR per chi si prenderà un TV di questo tipo, godiamoci il 4K per chi si prenderà un lettore di questo tipo, sapendo che non vedremo più di una centinaio di titoli in capo a un anno. Allora adesso ti chiedo delle cose più facili, perché alcune delle cose che abbiamo appena detto sono state un po' complicate. Piatto e curvo, questo è stato almeno negli ultimi 2 anni un grandissimo tema del CES. Quest'anno abbiamo visto cose piatte, cose curve, parlando di televisori. Quali sono le novità, i trend? Allora, l'inventore del curvo, che fondamentalmente è Samsung, che l'ha spinto molto diciamo negli ultimi 2 anni, continua su questa strada, quindi continua a sostenere che il curvo sia migliore, e quindi ha proposto tutta la gamma di fascia alta, fondamentalmente curva. Altri produttori invece stanno facendo retromarcia. Per esempio LG ha annunciato che di tutti gli OLED del 2016, anche quelli che arriveranno a fine anno, soltanto una linea resterà curva. Attenzione, gli OLED sono partiti che erano solo curvi, per inciso, e tutti gli altri saranno piatti. Evidentemente ha come dire, in qualche modo registrato il fatto che il livello di gradimento da parte del pubblico sul piatto, o di confidenza sul fatto che non sia un errore comprarlo, perché già l'hanno avuto e già sanno com'è, quindi sia più alto, e quindi insistono sul piatto. Devo dire, noi siamo sempre stati scettici, non abbiamo mai fatto un grande mistero, salvo sul fatto del design, perché probabilmente il design curvo è intanto qualcosa di nuovo, di diverso, e poi anche tutto sommato piacevole. Sul discorso della visione qualche riserva ce l'abbiamo sempre avuta. C'è aria di riflusso, c'è aria di ritorno al piatto. Devo dire che questo curvo è sicuramente un qualche cosa che può andare molto bene se siamo in un cinema con uno schermo CinemaScope molto grande, da una distanza di visione anche abbastanza ridotta, quindi ci avvolge un po'. Un 50 pollici curvo, onestamente non riesco a trovarne un significato vero, se non un aspetto anche qualcuno mi dice che conta di status symbol. Io non ci credo più di tanto, nel senso che non è che uno compra un TV per farlo vedere, però forse sì. Dicono che l'Italia sia stato il paese con la maggiore diffusione di cellulari quando sono partiti i cellulari, proprio per questo motivo, magari anche con i TV curvi e così. Beh, non possiamo, io perché ho fatto la radio fin da quando c'erano i giradischi, tu perché immagino che abbia visto e provato tantissimi giradischi, non possiamo non citare il giradisco che torna, che sembra quasi incredibile. Ma intanto ne abbiamo visti da grandi produttori, cioè Panasonic e Sony, due giradischi, e questo è già un segnale, no? Quello di Sony, partiamo da questo, è un giradischi apparentemente convenzionale, ma così non è, perché esce USB, quindi ha già, non c'è più neanche bisogno dello stadiofono, ha già il convertitore analogico digitale e quindi si può sentire volendo anche direttamente in digitale. E questo è, vabbè, è una prima cosa singolare, poi fatto da Sony, sicuramente piacerà. Però quello che ci ha toccato più il cuore, secondo me toccherà il cuore anche di molti ascoltatori, è il ritorno del Technics SL1200, che è un giradischi mitico perché è stata una scommessa di Technics portata avanti negli anni nel fare un giradischi a trazione diretta, quando tutto il mondo diceva che la trazione diretta trasferiva troppo, diciamo, rigidamente le vibrazioni del motore alla rotazione del disco e quindi al fono rilevatore, alla puntina, con dei disturbi. Ecco, Technics negli anni, in tutte le edizioni dell'SL1200, ha messo a punto il motore perché queste vibrazioni non si trasferissero. Sì, ricordiamo che gli altri giradischi hanno la cinghia. Sì, la cinghia, essendo di gomma, trasferiva in qualche modo in maniera più morbida il movimento, sì, e quindi più ammortizzata. E trazione diretta invece no. Per anni questo giradischi robustissimo, assolutamente ben funzionante, affidabile, è stato considerato lo standard nelle emittenti radiofoniche, per esempio, è stato considerato lo standard per i DJ, ma è stato anche in realtà molto utilizzato anche in alta fedeltà, perché per moltissimi anni, proprio perché aveva questo mercato molto ampio, è rimasto largamente disponibile a prezzi tutto sommato accessibili. Ecco, dopo 4 anni dalla sua sparizione dal mercato, perché era stata interrotta ed era rimasto l'ultimo prodotto Technics, e a un anno abbondante, diciamo un anno e mezzo, da quando Panasonic ha risvegliato il marchio Technics e ha rifatto i primi prodotti, ecco che arriva l'SL1200. Perché è una novità? Perché è un prodotto vecchio di così tanti anni, come fai a una novità? Beh, è una novità perché il ciclo nuovo di Technics, che gli amanti dell'alta fedeltà sicuramente ricorderanno come nome, era un ciclo tutto impostato all'high-end, quindi all'altissima qualità, ma anche a dei costi irraggiungibili. E tutti i prodotti che erano usciti fino a oggi, in questo anno e mezzo, erano prodotti quasi, fatemi dire, da esposizione, ma irraggiungibili per le persone con un portafoglio normale. E invece di cosa succede? Di colpo arriva l'SL1200, che è un prodotto che è sempre stato molto popolare. Adesso vedremo il prezzo a cui verrà posizionato, non tanto l'edizione limitata in 1200 pezzi che esce a luglio, ma quella che uscirà verso fine 2016, che sarà invece l'edizione più commerciale, che noi ci aspettiamo dovrebbe essere messa più o meno al prezzo al cui è uscito di mercato nel 2010 il vecchio SL1200, che era intorno ai 500 euro, poco più. Ecco, vediamo se questa sarà la promessa. Ma chi ha i vecchi vinili, chi vuole ancora ascoltare i vinili, chi vuole comprarli ancora oggi perché sono ancora in vendita, bene, ha un giradischi in più su quale contare. Oppure i DJ che sanno ancora mixare oppure fare scratch con il disco. Questi 4 anni di assenza però hanno fatto sì che molti imparassero a lavorare col digitale e adesso a farli tornare indietro. Insomma, la comodità prevale sempre sul sentimento. Beh, non potevamo non parlare di questa operazione nostalgia che si inserisce in un trend molto significativo, che è quello della rinascita del vinile, che negli ultimi anni molti appassionati hanno riscoperto. Per quanto riguarda i televisori, aggiungo un brevissimo commento. Se ci pensate, il prodotto di elettronica di consumo, che è sempre stato fra le cose più semplici da comprendere, cioè il televisore, è diventato così complesso che da un lato bisogna documentarsi e studiare un po' prima di un acquisto, ma l'industria, questo lo vediamo francamente molto anche qui al CES di Las Vegas, l'industria dovrebbe fare uno sforzo di semplificazione che ancora non riesce a fare. Bene, tutto per questa puntata speciale di 2024, speriamo abbiate apprezzato tutte le nostre interviste, i nostri esperti. Ringrazio Valeria Bernardi e Paolo Corleoni che mi hanno aiutato dallo studio a Milano. Ci risentiamo domenica alle 13.30 da Las Vegas. Per il momento è tutto. 2024. 31 seconds and we're on for